America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I'm here today because the time has come for common sense, comprehensive immigration reform. The time is now. Il presidente Barack Obama, sono qui oggi, ha detto in un discorso che ha pronunciato a Las Vegas in Nevada, perché è arrivato il momento di approvare una riforma completa dell'immigrazione ispirata al buonsenso. Now it's the time, ha detto il presidente, adesso bisogna agire. Ecco, per Barack Obama la svolta è piuttosto importante dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista storico, perché l'umore che si sta raccogliendo qui in America, a New York, ma anche nella capitale, a Washington, è che forse a questo punto c'è un consenso per poter procedere verso un compromesso che superi tutte quelle che sono state le differenze che hanno impedito uno sviluppo simile sia nell'amministrazione Bush che nell'amministrazione Clinton. E dunque per Barack Obama si profila, se si andrà avanti, ha chiesto che questa legge sia varata entro la fine dell'anno, ci sono naturalmente problemi, ma se si andrà avanti per lui sarà un successo storico, sarà sicuramente il più importante successo del suo secondo mandato e comunque uno dei più importanti successi della sua presidenza. Dunque attorno a questa riforma dell'immigrazione si ragiona e si disquisisce perché c'è una forte, fortissima componente politica. Barack Obama ha cavalcato la campagna elettorale del 2012 portando alto il vessillo della riforma dell'immigrazione, ha introdotto la possibilità per giovani che fossero cresciuti negli Stati Uniti da immigrati illegali di poter avere un permesso per diventare cittadini americani. Ecco, questa è una proposta che ha potuto fare in modo autonomo, ha continuato a parlare di immigrazione e ha conquistato il voto dei latinoamericani. I repubblicani invece hanno mantenuto una linea rigida, una linea dura. Ricordiamolo, ci sono 11 milioni di immigrati illegali americani, ormai qualcuno dice quasi 12 milioni di immigrati illegali americani, ci sono 50 milioni di latinoamericani, la maggioranza degli 11 milioni, dei 12 milioni di immigrati sono poi di fatto latinoamericani. Ecco, il partito repubblicano si trova in difficoltà. We've got to stop being the stupid party. And I'm serious, it's time for a new Republican Party that talks like adults. It's no secret we had a number of Republicans that damaged the brand this year with offensive and bizarre comments. I'm here to say we've had enough of that. Bobby Jindal, il governatore della Louisiana, è uno dei pezzi da 90 fra i governatori repubblicani, un possibile candidato per le elezioni del 2016. È stato molto aggressivo a una riunione con suoi compagni di partito qualche giorno fa. Dice in questo breve spezzone che vi ho fatto ascoltare: dobbiamo smetterla di essere il partito stupido. Bisogna che noi repubblicani iniziamo a comportarci da adulti. Quest'anno il partito è stato danneggiato da commenti troppo spesso offensivi o bizzarri. Per me è tempo di dire basta. Ecco, attorno a questa proposta sull'immigrazione si sta creando una svolta anche all'interno del partito repubblicano. Gli estremisti del Tea Party sono in qualche modo isolati. Al Senato, come abbiamo visto ieri, si è formata una coalizione bipartisan dove tra l'altro c'è negli 8 senatori che hanno trovato il compromesso, 4 democratici e 4 repubblicani, c'è anche Marco Rubio, il senatore repubblicano della Florida, giovanissimo, uno dei beniamini del Tea Party Movement. Ebbene, lui è d'accordo nell'andare avanti lungo questa proposta. Non a caso Marco Rubio è di origine cubana, è un latino americano. Non a caso Bobby Jindal è di origine indiana, è stato il primo indiano a diventare governatore di uno stato americano. Insomma, l'America sta cambiando, il partito repubblicano è in qualche modo ancorato a questa sua definizione di partito dell'uomo bianco, dei bianchi. Ecco, è questo che vuole dire Jindal. Rompiamo col passato, se no i democratici continueranno a farci neri. Barack Obama ha sviluppato una strategia straordinaria perché gioca di sponda con il Senato, come ha giocato di sponda in passato quando è riuscito a sconfiggere il pericolo di un precipizio dal fiscal cliff. Lo ha fatto di nuovo quando si è trattato di aumentare il tetto sul debito, lo sta facendo di nuovo con la proposta per riformare la legge sull'immigrazione. Think about it. We define ourselves as a nation of immigrants. That's who we are in our bones. That's right. The promise we see in those who come here from every corner of the globe, that's always been one of our greatest strengths. It keeps our workforce young. It keeps our country on the cutting edge. And it's helped build the greatest economic engine the world has ever known. Siamo una nazione di immigrazione, lo siamo nelle nostre ossa e questa è la nostra forza, ci permette di avere la forza lavoro sempre giovane che mette gli Stati Uniti all'avanguardia, che ci ha aiutato a costruire il più grande motore economico del mondo. Ecco, motore economico del mondo. Gli Stati Uniti sono in crisi, ma gli economisti hanno stimato che la crescita dell'economia americana, nel caso in cui si dovesse approvare una legge sull'immigrazione, una nuova legge sull'immigrazione, aumenterà dello 0,8%. Perché? Beh, perché ci sarà un impulso, per esempio, al settore immobiliare, perché una gran quantità di lavoratori che oggi lavorano in nero cominceranno a pagare le tasse, quindi ci sarà un aumento delle entrate per lo Stato, ci saranno dei settori economici che cominceranno a muoversi un po' più rapidamente, quello immobiliare ve l'ho citato, ma anche quello al consumo, ci sarà la possibilità infine di ridurre il disavanzo pubblico americano. Ecco, questa componente economica è molto forte. Sentiamo come Obama ha chiuso il suo intervento. As the idea of reform becomes more real and the debate becomes more heated and there are folks who are trying to pull this thing apart, remember that this is not just a debate about policy. It's about people and young people who want nothing more than the chance to earn their way into the American story. Quando il dibattito si farà caldo, dice ancora Obama, man mano che si avanzerà con questo progetto di riforma, ci sarà chi cercherà di farlo naufragare. Ricordatevi che questo dibattito non riguarda la politica, riguarda la vita di milioni di persone che chiedono solo di guadagnarsi la chance di fare la loro parte nella storia americana. Insomma, la componente umana non è secondaria e sicuramente finirà per avere un peso molto importante nel momento in cui si arriverà alla discussione finale e al voto. Dow Jones a quota 13.954 punti, siamo a meno di 50 punti da quota 14.000, ma comunque ieri abbiamo chiuso ai massimi dal 2007, la borsa americana tira e in qualche modo sta scontando il fatto che forse le cose dal punto di vista economico possano mettersi meglio, non subito. Oggi avremo il dato preliminare di crescita del prodotto nazionale lordo americano per il quarto trimestre, le stime sono piuttosto prudenti, si parla dell'1%, dunque un quarto trimestre in forte frenata, in rallentamento, è un dato non secondario questo, perché sempre oggi, è una giornata affollatissima, lo ammetto, scusate se vi tedio magari con queste notizie di incontri e di sviluppi, però oggi si riunisce il Comitato Monetario della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, non ci si aspettano sorprese a breve, la Fed continuerà la sua politica accomodante, continuerà ad acquistare bond sul mercato per tenere i tassi di interesse quanto più bassi possibili. Però ha cominciato a trapelare l'indiscrezione secondo cui, proprio alla Federal Reserve, alcuni governatori stanno cominciando a chiedersi se non sia arrivato il momento di cominciare quantomeno a preparare nel medio-lungo termine un cambiamento di policy. Ecco, vi ripeto, per ora non succederà niente dal punto di vista pratico, però siamo all'inizio del 2013, l'inflazione per ora resiste, non ci sono quei presupposti che dovrebbero spingere la Fed a cambiare politica, ma all'interno del Consiglio dei governatori, beh, forse qualche equilibrio sta cambiando, non oggi, ma domani avremo, soprattutto in materia di voto per la politica monetaria, magari qualche risposta a questi sviluppi più recenti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!